attenzione canale 10. Hola, attenzione canale 10, canale 10 che ha l'ascolto. Attenzione canale 10, canale 10. Grazie a tutti.